Letture di Radio 24. Non si sa ancora se Strauss-Kahn sia veramente colpevole di molestie nei confronti di una cameriera del Sofitel, ma quello che è certo è che per molti clienti il personale femminile degli alberghi rappresenta un oggetto di attenzione. Si prendono cura della nostra camera, capiscono e spesso anticipano i gusti del cliente. Sono cortesi e cordiali. Nulla di strano se scatta una certa simpatia, in certi casi persino attenzione. Ma la cameriera d'albergo non scatena soltanto pulsioni sessuali aggressive come quelle di cui è accusato l'ex direttore del Fondo Monetario Internazionale. Nella maggior parte dei casi incarna una fugace donna dei desideri che attrae occhiate e sorrisi complici e talvolta fa innamorare. E anche se è difficile farsi confidare tutto questo da loro, in questo momento al centro dell'attenzione, le cameriere ne hanno di cose da dire su quel mondo maschile che passa davanti ai loro occhi. E non sono solo storie di molestie come quelle messe in luce da un'inchiesta del New York Times. A Monte Carlo le chiamano femme de chambre, che suona meglio di cameriera o addette alle pulizie dei piani. Sono loro che si occupano di rifare i letti, arricchire il frigo bar, sistemare il disordine delle camere degli alberghi. Conoscono le abitudini dei clienti, capiscono con uno sguardo se l'ospite è esigente o poco attento, se è arrivato per business o per le vacanze, se dorme solo o in compagnia e se la compagnia è abituale oppure no. C'è chi considera gli alberghi luoghi di passaggio, chi una seconda casa, chi isole felice, chi si annoia e cerca di passare il tempo come può. Elenca il direttore Claudio Ceccherelli del Park Hyatt di Milano, 5 stelle a pochi metri dalla borsa. Trovare cameriere all'altezza è difficile, ma fa la differenza. Il vero lusso non è dato dalle strutture, ma dall'empatia che il personale crea con l'ospite, dice. La sua è una clientela di uomini d'affari che chiedono spesso la solita camera e hanno abitudini precise. Conosciamo i loro desideri e cerchiamo di soddisfarli prima che chiedano, asserisce il direttore. Due sono le suite più richieste, Imperial e Presidential, che rispettivamente costano 6.500 euro e 4.800 euro al giorno. Le cameriere sono sotto l'ala protettiva di Piero, responsabile dei piani con un fisico da guardaspalle. Ho sempre avuto a che fare con persone educate, però per evitare fraintendimenti o avance è fondamentale non dare confidenza ai clienti, sottolinea Neidmar, brasiliana quarantenne, addetta alle camere da quando ne aveva 15. Noi dipendenti abbiamo un decalogo di regole da seguire, le impariamo al corso prima di iniziare a lavorare. La prima è che se il cliente entra in camera è meglio uscire. Se poi il cliente è di rilievo e ha preso una suite, è meglio lavorare in due. Tutti conosciamo i clienti considerati sensibili, spiega Neidmar. In ogni caso, per ogni evenienza, basta chiamare Piero con il cercapersone. Anche all'Hotel Principe di Savoia di Milano c'è via vai di clienti speciali. La suite presidenziale del 5 Stelle Lusso costa intorno ai 6.000 euro al giorno, piscina inclusa. Beatrice è alla reception, ha seguito celebrity come David Beckham e George Clooney. Ammette di essere spesso corteggiata e racconta che la parte più delicata è declinare gli inviti senza offendere il cliente. I più generosi con le mance sono gli arabi e i russi. È felice del suo lavoro anche Daria, russa, guest relation al Boscolo Hotel, dove si fermano calciatori e industriali. Facile che nasca confidenza con gli habitué, soprattutto con i miei connazionali, afferma. Ho ricevuto regali dagli ospiti come fiori o bottiglie, mai richieste esplicite. Ammetto che qualcuno, tra il serio e il faceto, un gesto galante l'ha fatto. L'ultima volta? È successo che un signore americano volesse mangiare una pizza alle 11:30 di sera e sono riuscita a trovargli un ristorante aperto. Quando è tornato un po' brillo, mi ha portato una pizza margherita e simpaticamente mi ha proposto di mangiarla insieme, dice. A sorpresa, il cliente più generoso risulta essere un francese. Quando arriva, lascia sempre 400 euro. LF, invece, ha chiuso con la vita d'albergo. Ho iniziato come cameriera ai piani, poi mi sono diplomata come fisioterapista. Ho lavorato per 3 spa di alberghi di lusso nel centro di Milano, racconta. Capitava che clienti abituali, dopo qualche seduta di massaggio, si presentassero nudi, senza gli slip di cortesia, oppure mi mettessero in mano 500 euro per prestazioni extra. Elle adesso ha smesso di lavorare negli alberghi perché non le piaceva l'ambiente. Purtroppo i direttori non sempre possono riuscire a controllare cosa succede dentro le cabine dei massaggi. Basta che una dipendente conceda il famoso extra e la clientela diventa più esigente e in alcuni casi aggressiva anche con le ragazze che non accettano, lamenta. Le fa eco un'altra ex dipendente di un albergo di lusso del centro, apprezzato dai personaggi dello spettacolo, MN, 36 anni. «Ho ricevuto spesso avance dai clienti. Una volta uno di loro, famosissimo, mi ha lasciato un biglietto che non lasciava niente alla fantasia e pensare che ero anche una sua fan». E nell'ambiente dei discografici si ricordano ancora i movimentati soggiorni di Robbie Williams e dei Kiss in un lussuoso albergo del centro di Milano. Per non parlare ovviamente degli alberghi usati come alcove. Quella è un'altra storia che meriterebbe un capitolo a parte. Bisogna avere il paraocchi per ignorare avvenenti signorine che sostano nel giardino di un albergo a 5 stelle a due passi da via Monte Napoleone, racconta SG, imprenditore che chiede l'anonimato. Si presentano e si fanno offrire da bere. Per continuare la serata c'è una tariffa. Non ho problemi a dire che qualche volta ho offerto anche la cena, sospira. E poi c'è la privacy. Molti VIP di passaggio nelle grandi città preferiscono alberghi più decentrati. Le storie più interessanti le ho sentite sugli alberghi intorno alla nuova fiera. Alcuni amici imprenditori mi dicono che non è difficile trovare dipendenti dell'albergo disponibili, conclude l'imprenditore di prima. Tra i preferiti dei calciatori, invece, c'è l'Hotel Meliani, nei pressi dello stadio. L'anno scorso un importante allenatore ha preso una camera in città prima della partita, riferisce VB, dipendente della struttura. Pare avesse una predilezione per una terapista della nostra spa. Tuttavia, gli apprezzamenti non sono sempre a sfondo sessuale. L'attore Johnny Depp l'anno scorso ha soggiornato per due mesi a Venezia nella palazzina Grassi mentre girava il film The Tourist. Lì ha conosciuto Laura, sua maître personale. Monitorava tutto, dalla dieta alle richieste più bizzarre dell'attore. La confidenza è stata tale che alla fine lui le ha proposto di lasciare Venezia e diventare la sua assistente, raccontano le ex colleghe con un po' di comprensibile invidia. Cameriere? Qui da noi sono molto belle, soprattutto ragazze dell'est, afferma un dipendente di un prestigioso albergo di Monte Carlo che vuole rimanere anonimo, perché il Principato ha fatto della discrezione il suo fiore all'occhiello. Non a caso c'è un via vai di star internazionali. Due anni fa una femme de chambre arrotondava con gli extra, chiedeva 500 euro. Era talmente bella che decideva lei a chi dire sì o no, non accettava avance da tutti. Continua. Oggi la ragazza non è più lì. Dicono che abbia trovato un posto migliore. L'oggetto del desiderio dei clienti monegaschi ora è una guest relation belga. Riceve complimenti, fiori, biglietti per concerti e inviti a cena. Confida la fonte monegasca. Sarà lei Miss Cameriera d'Albergo 2011? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Annalia Venezia, Cameriere dei Desideri, da Panorama del 1 giugno. È morta nei giorni scorsi all'età di 104 anni Huguette Clark, misteriosa ereditiera americana che da 80 anni non usciva più dalla propria abitazione, una casa di 44 stanze sulla 72esima strada a New York. Huguette Marcel Clark, la misteriosa ereditiera americana vissuta per decenni lontana dalla scena pubblica, è morta all'età di 104 anni, lasciando denaro e proprietà per oltre 500 milioni di dollari e innescando la contesa per l'ingente patrimonio. La Clark è morta nell'ospedale Beth Israel Medical Center, dove si era trasferita 20 anni fa, tagliando i ponti con amici, famiglia e il mondo esterno. Gli unici contatti li aveva con l'avvocato Wallace Bock e il commercialista Irving Kamsler, incaricati di amministrare il patrimonio, oltre ad alcune infermiere dell'ospedale. Nata nel 1906 a Parigi, in Francia, la piccola Huguette cresce in California prima e a New York poi. A Manhattan vive in una lussuosa casa di 121 stanze, simbolo dell'opulenza statunitense di inizio secolo. La magione dell'Upper East Side, situata al 962 di Fifth Avenue, sulla 77esima davanti a Central Park, ha ben 31 bagni e 4 gallerie d'arte private, oltre un teatro, una piscina coperta e un grande organo che Huguette amava suonare. La Clark apparteneva a una delle famiglie più famose e facoltose d'America, legata a cognomi illustri come Rockefeller, Astors e Guggenheim. È la più giovane dei 7 figli di William Andrews Clark, il magnate del rame. Clark, un democratico, È senatore dal 1899 al 1907. A quei tempi il suo patrimonio viene stimato intorno a 150 milioni di dollari, pari a 3 miliardi di oggi. I suoi affari spaziano dalle ferrovie all'oro, dalle banche al mercato immobiliare. Dal primo matrimonio ha 5 figli e dopo la morte della moglie nel 1893 si fidanza con Anna LaChapelle, da cui avrà 2 bambine, André e Huguette. Al momento della nascita di quest'ultima, il padre ha 67 anni, morirà 5 anni dopo. Così la figlia più piccola si trasferisce assieme alla mamma in una casa più piccola, 44 stanze al 907 di Fifth Avenue, all'altezza della 72esima. Per la giovane Rampolla, il debutto in società avviene a 20 anni e nel 1928 arrivano le nozze con William McDonald Gower, figlio di un socio d'affari del padre. L'unione dura appena 9 mesi. Il divorzio nel 1930 e la morte di uno dei fratelli spingono la donna a tagliare i ponti con tutto e tutti e a ritirarsi a vita privata con la madre, che morirà nel 1963. Da quel momento vive in completa solitudine, dedicandosi all'arpa e alla collezione di bambole. Mangia quasi solamente cracker e sardine. Non riceve i parenti che vogliono farle visita. All'inizio degli anni 90 decide di far perdere definitivamente ogni traccia e sotto falso nome si fa ricoverare in una clinica dove trascorre il resto della sua lunga e misteriosa esistenza. Di lei rimane una foto degli anni 30 e un patrimonio di oltre mezzo miliardo di dollari, tra cui la casa sulla 72esima, un palazzo a Santa Barbara, in California. Intorno a tanta ricchezza si è aperto un contenzioso dai contorni poco chiari, anche perché la donna non ha lasciato testamento. Diverse persone hanno avanzato pretese, mentre l'attenzione della procura è concentrata su commercialista e avvocato. I due, infatti, sembra che abbiano fatto operazioni poco chiare, usando parte del denaro di Donna Clark per scopi personali. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Francesco Semprini, Attico TV e Sardine, muore la reclusa più ricca d'America, dalla Stampa di venerdì 27 maggio.